task is to speak all the good, to redeem our faults, repair the fractures bleeding. Terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca microfono, e lo ricordo, stasera ospiti Teodasia. Con voi e con loro ascolteremo, come già detto prima, 6 brani del CD Upwards, come il primo che è andato in onda. Titolo? Dunque, quel brano si chiamava Lost Words of Forgiveness e vede la collaborazione del vocalist dei Rhapsody of Fire, Fabio Leone. La vostra esperienza durante le incisioni per questo disco? So che ci avete lavorato per un lunghissimo periodo di tempo in virtù del vostro sound così complesso e sinfonico. Beh sì, possiamo partire addirittura da fare una brevissima biografia della band che spiega anche questa lavorazione. Nel senso, la band ancora nel 2009, quando è stato fatto il primo demo, non aveva una formazione definitiva. Certo. Nel 2009, dopo il demo, grazie al demo, la formazione si è completata e si è iniziato il lavoro di preproduzione del disco, che è durato almeno un anno. Dopodiché c'è stato un altro anno, nell'arco del 2011 c'è stata la lavorazione in studio, che è durata tantissimo per la complessità di questo lavoro, e finalmente poi nel 2012 siamo riusciti a farlo uscire. La prossima canzone per i nostri ascoltatori si chiama Temptress. Colei che viene sedotta vuole riappropriarsi della sua anima e sedurre a sua volta. Something I tell myself, I'll defy you. Sempre con i teodaggi ospiti, recensioni musicali su carta stampata e web, quali le più importanti, che cosa dicono del vostro album, in particolar modo cosa i recensori hanno apprezzato e segnalato. Dunque sì, siamo stati molto fortunati con la critica, abbiamo avuto delle recensioni in realtà moltissime sia da webzine sia da giornali stranieri e italiani. Tra gli stranieri possiamo citare Sea of Tranquility, che è canadese, oppure Ravenheart Music, che è statunitense. Gli italiani Metallus, Metalhead, Metal Maniac, Rock Hard, Giornale Metal. Diciamo che quello che hanno sottolineato della nostra musica è il fatto che portiamo delle qualità e dei caratteri musicali nostri, quindi ci discostiamo da quelle che sono le influenze nord europee, quindi Nightwish epica. Queste qualità le hanno introdotte più che altro come passionalità e modulazione, sia timbrica sia strumentale, e calore. Si sente diciamo che stiamo facendo qualcosa di nuovo, che stiamo cercando almeno di fare qualcosa di nuovo. Insomma, è importante. Sì. Ok, prossima canzone. La prossima canzone si chiama Hollow Worth ed è il nostro secondo singolo con suo video che potete andare a visualizzare. Hollow Worth è un viaggio introspettivo nelle radici del sé per trovare il sé incorrotto e quindi capace di risolvere i problemi. Torneremo a breve per la quarta parte di Rock Legends con i Teodasia. Looking for